известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. After triggering a national guessing game over his disappearance, Governor Mark Sanford admitted, yes, he'd skipped town to be in the arms of a mistress. The bottom line is this. I've been unfaithful to my wife. Ho tradito mia moglie, ho tradito i miei figli, ho tradito la mia famiglia, i miei elettori. Sono stato effettivamente in Argentina. Scusate, ma di questi tempi, come dire, è bello variare, svariare anzi sul tema, e il titolo potrebbe essere "Oi, che botto!" Details about how his 8-year email relationship with a female friend in Argentina recently ignited. About a year ago, it sparked into something more than that. Un anno fa è scoppiata una scintilla più forte, era una cara amica. Protagonisti e interpreti, governatore del South Carolina, si chiama Mark Sanford, è bello, 49enne, molto promettente, star del Partito Repubblicano, assai probabilmente, diciamo fino a ieri, perché adesso ero, insomma, come dire, sono un po' scesette le sue azioni, candidato alla nomination repubblicana per la Casa Bianca 2012, molto noto per essere un propugnatore della legittimità morale, per essere stato un duro persecutore di Bill Clinton nel periodo dell'impeachment per la questione dell'affare Levinsky, è noto recentemente nel suo tentativo di rifiutare l'aiuto economico, no, da parte del governo di Washington, perché lui era contro la spesa, contro l'eccesso di spesa. Non dobbiamo togliere soldi agli americani neanche per salvare l'economia americana. Nel frattempo un giudice ha rigettato la sua richiesta di rifiutare i quattrini del governo centrale, ma lui nel frattempo si è costruito una ben altra gatta da pelare, corrispondente anche alla richiesta di divorzio immediato della sua bella moglie Jenny, perché a un certo punto aveva detto ai suoi collaboratori e anche ai media: vado a fare un trekking nei Monti Appalachi. Vado a fare un trekking nei Monti Appalachi. Insomma, dovete farvi un po' lo scenario, no? Trasferirlo in America, come dire vado in un monastero in Engadina, ecco, una cosa del genere. Lui ha detto: vado in un monastero in Engadina, non cercatemi per cortesia, non telefonatemi, non mandate me, ma quale Engadina? Il nostro Mark Sanford, grosso esponente della moralizzazione d'America, era in realtà andato un po' più in là degli Appalachi, era arrivato in Argentina. L'unica cosa in comune è una A, dove da alcuni anni pare con come dire un periodo poi particolarmente rovente negli ultimi mesi, aveva una storia con una signora argentina, perché tutto il mondo è paese, non vi sto neanche a descrivere le carriole di fango che i media americani stanno rovesciando su quello che aveva veramente l'occasione di essere almeno nel, diciamo, nel top 3, tra i primi 3 possibili candidati repubblicani per la nomination del 2012. Una carriera completamente distrutta da questa ennesima storia di sesso mal gestita, mal condotta, e soprattutto di impossibile interazione tra media, condotta etica dei pubblici rappresentanti e verità e senso, significato della parola verità. Lui ne ha dette di tutti i colori, ha fatto una conferenza stampa spaventosa, perché poi a un certo punto si è messo a piangere, ha chiesto scusa a tutti, ha raccontato questa storia del viaggio agli Appalachi, dicendo lui inizialmente voleva andare nei Monti Appalachi, poi però non si sa come è finito in Argentina. Allora la mettiamo in ridere perché non vediamo come altra metterla, e anche perché poi ci riporta un po' la sensazione appunto che tutto il mondo è paese. Dell'ultima ora sono alcune agenzie americane che fanno sapere che i giornali di Columbia, South Carolina, la capitale dell'emergente stato della South Carolina hanno messo le mani sulle mail che il governatore si scambiava, poi ancora con le mail scambiate con la signora argentina, sono torride, questa è la parola utilizzata dal giornalista che ce l'ha fra le mani e che naturalmente lascerà gocciolare giorno dopo giorno, come insegnano ormai le tattiche mediatiche nei giornali e nelle televisioni locali e nazionali. Mi trovo in una situazione d'amore senza speranza, insomma, tu sei la mia grazia e la mia calma, in te trovo la sofisticatezza, che una sofisticatezza va d'accordo con la tua bellezza, tu sai parlare, discutere, ma sai dare anche baci meravigliosi e commoventi e quant'altro. Mark Sanford, bye bye, è un altro che lascia, direi, lo scenario politico americano. Quindi se poi uno apre il New York Times e si mette a leggere un editoriale di un certo tenore, come dire, gli viene a dire sì, vabbè, ormai voi vi siete accorti che in Italia, anche perché si sta avvicinando il G8, alcune cose non vanno granché bene da questo punto di vista, però pure a casa vostra francamente ne succedono di policrome. Tra l'altro Mark Sanford è l'ultimo di una lunga lista ormai di politici di primissimo piano incappati in storie rovinose come queste. Vi ricordo solo John Edwards, il numero 3 della corsa democratica, che inciampò in un affare per certi versi anche peggiore. Ma non stiamo a scavare troppo, piuttosto dedichiamoci alla lettura che Marin Dowd, la più importante editorialista del New York Times, ha dedicato a Silvio Berlusconi, perché vi ripeto, si avvicina il G8, naturalmente le personalità coinvolte hanno più spazio sui media americani, la storia di Berlusconi è ormai ampiamente sbarcata oltre oceano. Il paragone, anche qua si è sentito bisogno di fare un paragone, il paragone è con le famose sigarette di Obama, perché che lui la dica o non la dica, lui la sigarettina di tanto in tanto se la va a fumare. Dove se la va a fumare, chiederete voi, essendo la Casa Bianca smoking free, è vietatissimo fumare ovunque nella Casa Bianca, sui balconi, anche sui balconi è vietatissimo, e in giardino, ma chissà, forse là. Di fatto lui ha appena firmato un altro decreto che rende ancora più difficile, ancora più come dire, lontano e marginato, ormai non più parte del costume popolare americano, l'abitudine di fumare. Però lui di fatto il vizietto ancora ce l'ha, e Marin Dowd ha quindi cucito questo editoriale, paragonando naturalmente i vizietti dall'una e l'altra parte dell'oceano, con un titolo che è tutto un programma, si chiama Vizio e Spezie. Eccone un pezzetto. Infilare una fumatina qua e là non è esattamente il peggior difetto presidenziale possibile. Il nostro presidente è decisamente monastico al confronto con Silvio Berlusconi, i cui vizi pompeiani hanno spinto 3 importanti figure accademiche al femminile in Italia a scrivere un appello alle First Ladies. In sostanza hanno chiesto a Michelle Obama e ad altre consorti di leader mondiali di boicottare l'imminente summit del G8 all'Aquila, per protesta contro gli atteggiamenti sessisti e offensivi verso le donne del primo ministro. Una delle cose che la petizione denuncia, secondo il Times di Londra, è stato il tentativo di Berlusconi di proporre attrici e showgirls come candidate alle elezioni europee, sorvolando sulle presenze remunerate di ragazze alle superfeste nella sua lussuosissima villa. Sua moglie, Veronica Lario, un'ex attrice che lo incontrò mentre si esibiva in topless e che ora vuole divorziare da lui, lo ha pubblicamente rimproverato 2 volte, l'ultima il mese scorso, quando lo accusò di farsela con delle minorenni, dopo che Berlusconi aveva partecipato al 18° compleanno di una modella a cui ha regalato un diamante e una collana d'oro. Naturalmente Berlusconi, a cui piace farsi chiamare papi dalla sua banda di ragazzotte, ha rigettato le accuse. E i paparazzi hanno inondato i media di foto di ragazze svestite, note come l'harem di Berlusconi, nonché di un primo ministro cieco che se la godeva tutto nudo nella villa di Berlusconi in Sardegna. Visto come va con Berlusconi, l'Aquila sarà un buon posto per il presidente Obama per soddisfare il suo vizio di fumare. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. it was on one moonlit night, stars shining bright, whisper on high, love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. I say shine on the one that's gonna left me blue. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky to keep on shining. Well, I will shine on the one that's gone and left me blue. I say shine on the one that's gone and left me blue. I say shine on the one that's gone and left me blue. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Insomma, in certi casi, almeno in certi frangenti o sotto certi aspetti, tutto il mondo è paese, anche la moralizzazione di Washington. Evocata da Barack Obama, come dire, dovrà fare molta strada, no? Prima di diventare una realtà e non soltanto un proposito. Abbiamo un nutrito numero di interessanti nuovissime notizie da riferirvi. E allora, nel nostro giro per il mondo, cominciamo dalla Russia, dove naturalmente la notizia del giorno è la riapertura di fatto del processo per la morte di Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa nell'ascensore della sua abitazione a Mosca il 7 ottobre 2006. La Corte Suprema ha annullato la sentenza di assoluzione per le tre persone che erano accusate dell'omicidio, ma questa notizia, che sta rimbalzando un po' ad ogni angolo del mondo, naturalmente arriva anche da diverse ore sulle frequenze di Radio 24. Quindi noi andiamo a scovare invece una notizia di quelle, Stefano, laterali, che però in questo caso fanno anche sorridere, che riguardano il premier russo Vladimir Putin, che ha fatto una di quelle cose davvero incredibili, insomma, che non si può non raccontare, che forse sarebbe anche piaciuta al suo amico Berlusconi, perché si è improvvisato, insomma, presidente del popolo, forse anche un po' populista, che vive a contatto con la gente. Ebbene, ieri stava presiedendo una riunione del governo e all'ordine del giorno c'era una nuova legge che dovrebbe garantire un migliore equilibrio dei prezzi ai supermercati, insomma un rapporto più equo, più virtuoso tra produttori, distributori e consumatori. Ad un certo punto ha deciso di rompere le righe, ha interrotto senza avvertire nessuno la riunione e si è infilato con un blitz a sorpresa in un famoso supermercato sorpresa fino a un certo grossa. Punto. Comunque, senza avvertire, diciamo, gli interessati, si è infilato in un supermercato, naturalmente era seguito dal codazzo dei giornalisti e soprattutto di telecamere, che hanno mandato poi quasi in diretta insomma, sulle TV nazionali l'irruzione di Putin, che però, insomma, è andato a controllare i prezzi al dettaglio. Insomma, ha avuto da ridire soprattutto sulle salsicce. Qui addirittura le agenzie riportano un dialogo, appunto ripreso dalle telecamere, tra Putin e il dirigente del supermercato. Ho detto: ma perché queste salsicce costano 240 rubli, che corrispondono a circa 5,50 euro? Ebbene, a quanto pare il direttore della filiale del supermercato ha avuto addirittura l'improntitudine di rispondere a Putin e dire: ma sono salsicce di alta qualità, ce ne sono anche meno costose. Insomma, comunque Putin si è lamentato molto, poi ha fatto un giro tra i banconi della carne esposta, insomma si è lamentato, pare che poi subito i prezzi, dopo la sua intemerata di un quarto d'ora, di 15 minuti circa, siano subito abbassati. Insomma, Putin ha fatto anche questo. E naturalmente, dall'altra parte poi... il vetro, cioè, ci chiedono se i prezzi del caviale il caviale iraniano non ho per il momento aggiornamenti. Comunque, insomma, i prezzi della carne sono miracolosamente scesi d'incanto nel centro di Mosca. Lo chiamavano populismo baby, no? Direbbe Billy Wilder. Una notizia non allegra, ma che magari cammina sulla strada della dell'appurare come siano andate veramente le cose, veramente i fatti sono stati recuperati dopo tanti, tanti giorni ormai, i corpi del pilota e di uno steward del volo 447 dal Brasile stava portando 228 persone in Francia e che, come ricorderete, è scomparso in modo che rimane sostanzialmente misterioso. Quindi rimangono i dubbi sulle cause. Volo. Le cause del volo rimangono, però cominciano a capire qualcosa in più proprio analizzando i cadaveri che poco alla volta vengono ritrovati, e ormai la teoria dominante è che l'aereo sia esploso in volo e che proprio attraverso, come dire, l'ultimo contributo offerto loro malgrado dalle persone i cui corpi poco alla volta vengono ritrovati, si arriverà, non quindi con scatole nere o altre cose, ma attraverso l'analisi di tutto ciò si arriverà probabilmente in tempi piuttosto veloci a capire cosa davvero sia successo. Allora, parliamo di censura che naturalmente sta condizionando molto quello che sta avvenendo in Iran, ne parleremo anche tra poco. Di censura altrove parliamo, naturalmente il sapore, il significato, anche le conseguenze sono molto diverse. Andiamo in Cina, paese, Stefano, che forse sul piano della censura ha poco da imparare da altri. Ebbene, c'è una guerra apertissima ormai dichiarata contro Google, il celeberrimo motore di ricerca americano, che però ha grande successo anche in Cina, il secondo più utilizzato dai cinesi, che sono poi gli internauti più affollati del mondo, perché sono circa 300 milioni, quindi credo che da poco tempo abbiano anche superato gli americani come numero di collegamenti internet in Cina, d'altronde sono 1 miliardo e passa. Ebbene, Google è stata duramente punita dalla censura cinese, dal governo cinese, perché negli ultimi mesi ha diffuso, così ha detto il Ministero degli Esteri cinese, una grande quantità di materiale volgare e pornografico. C'è questa battaglia, questa campagna moralizzatrice partita ormai da tempo antico in Cina per cercare di far soccombere la pornografia da internet. Google è uno degli indiziati principali, degli accusati dal governo cinese. Ebbene, pare che da giorni ci siano problemi per collegarsi a Google, addirittura ieri c'è stato un blackout durato 2 ore e naturalmente la galassia sterminata dei blogger cinesi si è scatenata in proteste e quant'altro. Però tra le cose che ho letto mi ha stupito la risposta del portavoce cinese di Google, che mi sembra, Stefano, piuttosto dimessa, insomma quasi accondiscendente con il governo cinese. Ha detto: Google China è una compagnia che opera in Cina per fornire servizi di ricerca su internet e deve osservare strettamente le leggi e i regolamenti cinesi. Quindi, insomma, Google a capochino di fronte alle irruzioni nella rete del governo cinese. Sì, CNN, ecco, adesso è apparsa la fotografia di Silvio Berlusconi, ma stava facendo poco fa la lista di quelli del governo, comunque del Congresso americano, inguaiati in questo momento. Era passato Blagojevich, ma anche i nostri ascoltatori di SMS ci ricordano. È tuttora inguaiato, tra l'altro con una pesante questione legale da affrontare nelle prossime settimane. Spitzer, governatore dello stato di New York, è finito malissimo dopo un affair con una escort, caro. Poi spesso sono i moralizzatori quelli che finiscono male, come mai? McGreevy del New Jersey, scandalo gay che lo ha travolto. Poi John Edwards, di cui parlavamo, nonché il molto promettente, ex molto promettente Sanford, inciampato sulla strada, sul sentiero degli Appalacchi, dove diceva di essere andato in vacanza. Invece altre notizie preoccupanti arrivano non dall'Iran, di cui siamo abituati ormai quotidianamente a parlare, ma da un'altra nazione di cui parlavamo assai spesso, di cui adesso misteriosamente non si parla più, cambia solo una lettera. Si tratta di Iraq. Io vi ricordo che il 30 giugno comincia, secondo gli intendimenti dell'amministrazione Obama, il ritiro dalle città, dai principali centri abitati dell'Iraq, dell'esercito americano, ma le notizie che arrivano là non sono certo rassicuranti, soprattutto la terrificante serie di attentati che in questi giorni vuol dare chiaramente il segnale della inattaccabile, intoccabile forza di una guerriglia che non smette di uccidere. Sono state 64 le vittime, 64, un numero enorme, di una esplosione al mercato di Baghdad mercoledì mattina. Ieri Ieri mattina c'è stato un altro attacco che ha fatto 6 vittime questa notte, sono 6 gli attacchi mortali nelle ultime 72 ore, l'ambasciatore americano Hill e il generale Ray Odierno hanno oggi emesso un comunicato secondo il quale la serie terribile di morti, di attentati che colpiscono i cittadini iracheni provoca tutto il loro dispiacere, la loro preoccupazione, ma in sostanza il messaggio è: noi comunque andiamo avanti, siamo sulla strada di casa. You say you want a revolution. Well, no, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. When you talk avviciniamoci dunque al principale scenario di crisi di queste giornate, lo stiamo ormai seguendo, monitorando da diversi giorni. Parliamo di Iran, di cosa veramente sta succedendo per le strade, anche naturalmente nelle stanze del potere dopo le elezioni presidenziali. Devo dire che mai come oggi abbiamo avuto, anche nel cercare di preparare il programma, insomma di orientarci nel flusso di notizie in arrivo, una certa sensazione di spaesamento, perché le informazioni, gli stessi titoli, le cronache, tutto sta diventando assai nebuloso, confuso. C'è una situazione chiaramente caotica, di disordine, di pericolo, di tensione, di violenza, ma non se ne riescono ormai più a decifrare i termini, i margini, la portata. Non a caso sia questo discorso ha valore in chiave internazionale, ovvero ad esempio da un osservatorio lontano come bene o male siamo noi, sembra che le cose siano così anche su base interna, anche se è arrivata la notizia che la BBC, grazie al suo servizio in farsi, no, avrebbe dato coraggio al popolo iraniano. Ci sarebbero 6 milioni di iraniani infatti che ora vedono clandestinamente la BBC farsi. Un esempio su tutti sarebbe questo programma che si chiama Nobat Shoma, il tuo turno, trasmissione che incoraggia gli spettatori a telefonare, a prendere parte alle discussioni, a dire la propria verità. È diventato un appuntamento seguitissimo in queste ultime ore. Poi c'è anche questa notizia del medico che in quel famoso video tenta in extremis di salvare la vita a Neda, ebbene è scappato dal Iran, è tra l'altro un amico del famosissimo scrittore, star mediatica internazionale Paolo Coelho, che ne ha raccontato le vicende dopo quel terribile fatto. Bene, Arash, così si chiama il medico, adesso sarebbe arrivato al sicuro a Londra, sarebbe atterrato a Londra e ci darà anche la storia della sua, la sua verità su questa confusa storia, di cui però oggi vogliamo approfondire un aspetto particolare. Abbiamo chiamato Christian Uva, che è un ricercatore di cinema all'Università di Roma 3, autore di libri come Il terrore corre sul video o Impronte digitali, il cinema e le sue immagini, tra regime fotografico e tecnologia numerica, per ragionare proprio di immagini, ovvero della forza iconica. CNN in un servizio la chiama addirittura l'ultima immagine iconica, l'ultima immagine iconica capace di ispirare, ovvero di quel breve filmettino girato, credo, con un telefonino, che purtroppo manda alla storia la morte di Neda, e dalla straordinaria forza popolare, di immaginazione, di motivazione, di partecipazione, che da poche immagini come quella è scaturita, rifacendosi poi a esempi celebri, no? Vi ricordate il soldato che spara in testa al Vietcong, oppure lo studente davanti ai carri armati di Tiananmen, lo studente ucciso alla Kent State University durante la protesta universitaria in America. Vogliamo capire se è ancora così forte e quanto può essere forte una icona di questo genere, allorché diventa, come si dice oggi, virale, no? Ovvero diventa una epidemia in ogni forma di visualizzazione possibile. Buon pomeriggio, Christian. Buon pomeriggio a voi. Hai seguito questa vicenda e che valutazione ne dai? Sì, l'ho seguita, ahimè, l'ho seguita, credo un po' come tutti, e naturalmente la valutazione cerca di essere scissa, no, tra un piano che è quello prettamente umano, emotivo, proprio. Emotivo, inevitabilmente. Ho visto questo video, l'ho anche cercato di rivedere, ha sempre fatto una gran fatica, devo essere sincero, credo come tutti, e dall'altra però una valutazione che, tra virgolette, mi si perdoni il termine, di carattere, no, estetico, perché appunto bisogna fare i conti anche da questo punto di vista, come dicevi tu, con una estetica, con un aspetto iconico che ormai sta così assumendo anche questo, la famosa tragedia. Forza delle immagini, insomma, no? Poi esattamente ormai, dicevo, direi che dall'11 settembre 2001 ormai noi siamo entrati in un regime iconico, che poi possiamo entrare in una, come dire, in un piano più filosofico, ma che comunque fa i conti con quello che definiamo postmoderno, no? Mm-hmm. Questa cultura di cui si parla ormai da circa 30 anni, si parlava, no, di simulacri, si parlava di Matrix, di tante cose, eppure dal 2001 sembra che questo regime sia crollato, e che queste immagini, altro che simulacrali, siano tornate ad essere potentemente testimoniali. Eppure sono immagini digitali, sono quelle dei telefonini, sono quelle delle videocamere, no, che accorrono sui luoghi della tragedia, e che ci restituiscono con questa immediatezza assoluta quello che accade. Ecco, credi c'entri qualcosa, proprio ribadendo il termine estetico che hai usato poco fa, il fatto che le fonti, no, le fonti di produzione, le sorgenti di produzione di queste immagini così forti, così iconiche, appunto, siano poi mezzi, diciamo, poveri, o chiamiamolo friendly, insomma, mezzucci come un telefonino con la telecamera, una telecamerina da poche centinaia di euro, quindi non più, no, un'estetica altamente simbolica, grazie alla ricerca del maestro, ma invece la produzione o del grande fotografo, no, che un tempo andava in prima linea o alle manifestazioni a rappresentare momenti particolari, ma così la partecipazione spontanea di uno qualsiasi di noi, che poi condivide immediatamente, e quindi poi anche questa trasversalità, no, questa orizzontalità della trasmissione incontrollata, è questa la nuova estetica? Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici. La vera rivoluzione, no, è proprio quella di vedere il mezzo di ripresa che passa nelle mani, appunto, del cittadino, no? Si parla di citizen journalist in questo periodo, no? Sentivo anche un'intervista proprio al regista di cinema, Mark Balbaff, una celebrità, è un grande maestro iraniano da questo punto di vista. Esattamente sì. Qual è la differenza? Oltre al fatto che parliamo di immagini di bassa qualità, low profile, che proprio per questo però sono ancora più vere, paradossalmente, no? Non sono levigate, pulite, non sono quelle ufficiali che abbiamo visto, non so, anche, penso sempre all'11 settembre, una cosa erano le immagini dei grattacieli riprese dalla CNN, una cosa sono quelle dei videoamatori riprese dal basso, no? E qual è la differenza? Da una parte si sta fuori, dall'altra si sta dentro. Questa è la differenza. Il fatto di avere in mano un cellulare significa che io l'immagine te la restituisco dall'interno, certo. della tragedia. E infatti purtroppo anche in quest'ultimo caso siamo a un passo, siamo dentro, siamo insieme così alle persone che vivono questa tragedia. Non sono il fotografo, non sono il come dire il cineasta o comunque il reporter che da fuori testimonia qualcosa, ma pur sempre da fuori. La differenza è questa, è che è una testimonialità che viene da dentro, che viene dall'interno, e se guardiamo bene il cinema la sta raccogliendo pienamente, se guardiamo il cinema che si sta facendo in questi ultimi anni. Queste immagini stanno diventando, è vero, stanno diventando parte del linguaggio cinematografico, no? In un certo senso. Assolutamente. Senti, per concludere rapidamente, che cosa resta poi, che cosa diventano poi queste immagini quando il tempo fa il proprio lavoro, no? Ovvero appunto le immagini, che ne so, appunto lo studente davanti ai carri armati o tante altre di questi momenti topici, zenith della vita collettiva, poi dove le classificheresti tu una volta che gli anni, i decenni si accumulano, no? Entrano a far parte del patrimonio collettivo, cosa sono? Tracce di storia o veramente un modo di vedere? Cosa sono? Ma nascono senz'altro come tracce, come indici veri e propri di un qualcosa che accade, ma che in un attimo, guardiamo quello che è accaduto anche per Neda, diventano delle icone o dei simboli, ma nel senso proprio di diventare delle elaborazioni grafiche. Come pensiamo anche al caso di Abu Ghraib, no? Certo, quelle terribili certo. immagini che in un attimo sono diventate, tra virgolette, opere pop, perché elaborate graficamente, entrate in un circuito. Possiamo contestare tutto questo, perché da un lato significa anche mercificare, certo, secondo me, certo. la morte, la tragedia, ma dall'altro però forse darle anche un rilievo ulteriore. Beh, del resto c'è stata addirittura questa proposta, no? Questa proposta di Nobel per la ragazza, per Neda, che ci ha suonata in questo senso, in fondo a modo suo, una mercificazione, un riuso, no? Poi di quella che è diventata incolpevolmente un simbolo, ma prima che un simbolo, una vittima. Insomma, abbiamo girato intorno alla visualità, alla rappresentazione anche del dramma in corso di svolgimento in Iran. Ci sembrava almeno il caso di fermare l'attenzione un attimo su questo aspetto, ma poi c'è la cronaca che prepotentemente si fa a largo. Cosa davvero sta succedendo in Iran? Difficile capirlo, difficile approfondirlo, ci stiamo provando, le agenzie sono sempre più, come dire, frantumate, no? Le verità arrivano arrivano sempre più a pezzetti. Anche domani ci lavoreremo sopra. Ora vi presentiamo una intervista che dà un contributo. Di certo vogliamo solo aggiungere la notizia di poche ore fa, che il presidente iraniano Ahmadinejad avrebbe accusato Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America, di parlare come George W. Bush. Ecco, ci siamo, insomma, di essere caduto nella trappola dei paesi europei quando ha inasprito la propria posizione nei confronti di Teheran, e lo ha avvertito che in questo modo sarà difficile avviare quel famoso dialogo con la Repubblica Islamica che lo stesso Obama ha detto di volere. L'ex candidato riformista Karrubi ha revocato un raduno che avrebbe voluto tenere per commemorare i morti nelle manifestazioni. Questa è una notizia a margine della principale. Ahmadinejad ha detto a Obama: attento, se ti metti a fare il duro con me, io farò il duro con te, se il gioco, no, com'è, diventa duro, solo i duri giocano. Insomma, il braccio di ferro potrebbe profilarsi anche sotto l'aspetto internazionale. Abbiamo registrato poco fa una intervista con Ahmad Rafat, corrispondente dall'Italia di Voice of America, portavoce dell'Associazione Iniziativa per la Libertà di Espressione in Iran, già nostro ospite, quindi chiaramente, dichiaratamente, tenetene giustamente conto, oppositore di Ahmadinejad e sostenitore delle ragioni di Mousavi. La prima domanda che gli abbiamo fatto è: cosa sta succedendo a Teheran secondo le sue fonti? Che cosa riesce a sapere? Quali sono gli scenari in atto? Notizie arrivano ormai confuse dall'Iran. Pure ieri la grande manifestazione davanti al Parlamento, alla piazza Bohristan, è stata massiccia la presenza della gente, massiccia più di altri giorni la presenza delle forze dell'ordine, forze di sicurezza, i famosi uomini in borghese che appartengono al Basij. E si parla per la seconda volta presenza addirittura degli uomini in borghese che aggredivano i manifestanti, che non parlavano la lingua farsi e parlavano tra di loro in arabo. Cosa è successo? È almeno un morto è confermato da fonti, diciamo, ufficiali del movimento. Si parla di oltre un centinaio di feriti da ricovero e qualche centinaia, quasi 1000 feriti leggeri che non hanno dovuto fare ricorso alle strutture ospedaliere o al pronto soccorso. La polizia è intervenuta decine di volte, ha cercato prima di impedire la gente di arrivare in piazza, poi è intervenuto decine di volte, sparando anche spesso ad altezza d'uomo. Da qui credo deriva il fatto che siano più morti, perché più persone sono cadute ferite, ma non c'è certezza sul numero. Invece da parte delle autorità e della polizia ci sono notizie su feriti e morti? Le autorità confermano solo quei morti che escono su YouTube e attribuiscono la loro uccisione ai manifestanti. Sul numero dei feriti non c'è molta confusione, anche perché molti feriti vengono arrestati negli ospedali e trasferiti in carcere. Da qui nasce l'appello alla Croce Rossa Internazionale e alle ambasciate occidentali di accogliere i feriti per evitare che siano arrestati. Ahmad, ti chiedo un parere, un giudizio da collega, da giornalista di lungo corso che ne ha viste tante, oltre che di persona naturalmente in quanto iraniana coinvolta nei fatti. L'espressione bagno di sangue che qualche media, soprattutto internazionale, ha utilizzato, a tuo giudizio è appropriata per quello che è successo ieri o forse è anche sull'onda emotiva un po' eccessiva? Io credo che è un po' eccessiva, è stato brutale la repressione ieri, ma parlare di bagno di sangue, se il sangue si riferisce, come io mi riferisco quando scrivo, al numero dei morti, esagerato. Andrei un po' più cauto su questi termini. Oggi la situazione, da quello che ti risulta, com'è a Teheran? Sei in grado di stabilire dei contatti via telefono, via mail, attraverso magari anche internet e Facebook con Teheran, o si sta inasprendo ancora di più la chiusura dei bocchettoni, se vogliamo, dell'informazione anche spontanea tra l'Iran e il resto del mondo? Oggi è praticamente impossibile. Io tutto il giorno sto tentando di contattare i miei fonti, che sono gran parte giornalisti, ma altri attivisti del questo movimento dell'Onda Verde. Non sono riuscito a stabilire contatti con nessuno e ho ricevuto pochissime email da Teheran. solo un video, che non è un video di manifestazione, è un video di protesta realizzato dagli artisti iraniani. Pertanto la situazione da questo punto di vista pure si sta peggiorando moltissimo, e questo è una cosa che mi spaventa, perché se riescono a chiudere flusso di informazione, allora sì che ci sarà il bagno di sangue, e noi lo verremo a sapere molto dopo. Come ribadiva anche Nicastro il Corriere della Sera ieri, c'è sempre evidente, c'è sempre in prima linea questo ruolo giocato da artisti, intellettuali, scrittori, registi in questo movimento di protesta. Continuano ad arrivare segni di questo genere, mentre Mir Hossein Moussavi dal suo sito afferma: chi è dietro i brogli elettorali è responsabile del bagno di sangue, usando a sua volta questa espressione. Continueremo a seguire questa situazione a Jefferson 2, dove ci sono io, Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Peter Bescapè, la mail jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook dove siete invitati a iscrivervi. Sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, replica a mezzanotte, il podcast è sul sito della radio, l'appuntamento dopo le 4 come sempre domani qui su Radio 24, ci sentiamo.